Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Candido Cannavò riposerà nella cripta del Famedio al Cimitero Monumentale di Milano, vicino a Giuseppe Meazza e a Duilio Loi. L'assessore ai servizi civici del Comune di Milano ha infatti predisposto una delibera in tal senso. Si tratta, ha spiegato l'assessore, di un doveroso riconoscimento nei confronti di un milanese d'adozione che ha amato la nostra città ed è stato ricambiato da sportivi e non. Ritengo che la collocazione delle spoglie di Cannavò vicino a quelle di grandi atleti come Giuseppe Meazza e Duilio Loi costituisca un significativo contributo alla memoria della storia sportiva di Milano. Stamane, tra i tanti che da ieri mattina hanno affollato la Camera Ardente nella sede del Corriere della Sera, della Gazzetta dello Sport, nella sala prestigiosa, sala Montanelli, tra gli altri stamattina, tra gli ultimi, è arrivato anche Michel Platini, che ha ricordato la figura di Cannavò e ha detto, tra l'altro, ha fatto parte di quelle persone italiane mitiche che ho incontrato durante la mia carriera. Vigilia ormai a poche ore dalla doppia sfida, la tripla per carità, per la verità, però Chelsea Juventus è in programma domani sera. Gli impegni di stasera, come sapete bene, sono della Roma sul campo dell'Arsenal e dell'Inter a Milano contro il Manchester United. Poche ore a questa sfida, precedenza alla Roma con Spalletti che si dilunga brevemente peraltro sulla formazione. Io Loria l'ho fatto giocare poco, però come gli ho fatto vedere anche a Reggio Calabria, poi che mi sembrava una situazione, al di là della sfortuna episodica, poi io ho fiducia nei miei calciatori, come ho sempre fatto vedere. E come poi è accompagnato anche dal discorso delle statistiche, poi no, i miei calciatori hanno sempre giocato un numero di partite importanti, quelli che ho avuto a disposizione, ecco, l'ho sempre fatti giocare tutti, per cui non vedo il motivo, siamo a posto per giocare la partita. È quello che evidentemente tutti auguriamo alla Roma e in particolare a Loria. Non sono casuali queste pacche sulle spalle di incoraggiamento di Spalletti al suo difensore, al suo rincalzo. E sappiamo attraverso quali disavventure di formazione, di scelte e di rapporti interni, vedi caso Panucci, quale sia stato il percorso che ha portato fino a Loria all'Emirates, che insomma non è detto sia dov'è l'errore, verrebbe da dire pensando a qualche problema che Loria ha avuto in questa stagione. C'è un debuttante in Coppa Campioni invece a San Siro per quanto riguarda l'Inter. Sentiamo su questo uomo nuovo della difesa nerazzurra oggi e chissà forse azzurra domani. Lippi ci ha già messo giustamente gli occhi su. Sentiamo Mourinho sulla vigilia di Santon. No, secondo me esperienza non esiste. Esperienza... un rapporto diretto con l'età di un giocatore. Io ho visto già giocatori con 30 anni fare delle cose incredibili, sbagliare di modo incredibile. Io ho già visto giocatori di 15 anni che tu vedi giocare in allievi, che tu vedi subito che sono giocatori che pensano il gioco con grande genialità. Santon certamente è uno di questi, stasera il battesimo del fuoco, se vogliamo, contro i detentori della Coppa dei Campioni. È il momento del ministro degli esteri, Fabio Tavelli. Fabio, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dunque, si è letto, detto e sentito di tutto, direi, su questa triplice sfida. Al momento del sorteggio si era parlato in generale di sfida, triplice sfida impossibile, così era stata etichettata. Adesso, a parer mio, è diventata sin troppo facile. Allora, prima di entrare nei dettagli, come la collochiamo, cioè tra questi due aggettivi, impossibile e abbordabile, diciamo, come invece è diventata, come la collochi? Guarda, non voglio farmi condizionare dalla presenza di Beckham ieri in corso Buenos Aires e dal fatto che abbia ripetuto almeno 10 volte Impossible is nothing, che casualmente era lo slogan del suo sponsor. Però, per caso, sì. Certamente. Mm-hmm. Ma, no, allora, no, impossibile no. e certamente non lo è, poi andrà come andrà, ma impossibile, l'impossibilità non esiste. Secondo me è difficile, nel senso che se la consideriamo come insieme è molto difficile fare 3 su 3, è difficile per ognuna riuscire a passare, come credo sia difficile per le inglesi. Io credo davvero che siamo di fronte a, e non voglio essere banale, ma sono costretto ad esserlo, siamo di fronte a 3 sfide veramente apertissime, perché Manchester United e Inter sono le squadre che stanno dominando i loro campionati e sono i campionati insieme con lo spagnolo più forti d'Europa, e quindi stiamo davvero parlando del meglio. Stiamo parlando di una Juventus che è l'unica squadra delle 6, prendiamo in analisi solo le 6 squadre italiane e inglesi, che è praticamente al completo, e dall'altra parte c'è un Chelsea che è certamente sta vivendo un momento di crescita rispetto a un mese fa, sì. E per tacere della Roma, che è una squadra che probabilmente a livello europeo sa sviluppare il calcio più bello stilisticamente, contro un Arsenal che è falcidiato dalle assenze, quindi io impossibile veramente, poi no. Ripeto, possono passare tutte e 3 le inglesi, ma non credo sia impossibile. Certo, allora giochiamocela dalla parte ovviamente delle inglesi, nel senso che al ministro degli esteri non posso chiedere qualcosa sugli affari interni. Guarda, il vero ministro degli esteri, perdonami Gigi, ti direbbe che la partita più entusiasmante è quella tra il Liverpool e il Real Madrid, che sono le due squadre a maggiore vocazione europea, però logicamente ci occupiamo di quelle italiane. Sono d'accordo, ma chiuderemo su queste due e anche su Barcellona-Lione. Io partirei da quello che l'Inter, a parer tuo, dovrebbe sapere di recente, o gli interisti, mettiamola meglio, di recente, di fresco, di indispensabile sul Manchester United di oggi, cioè quello che stasera scende in campo a San Siro. Ma guarda, è difficile, perché difficile dire qualcosa di inedito, perché José Mourinho conosce molto bene il Manchester United, ha una tradizione splendida, credo sia l'allenatore del mondo, l'unico allenatore del mondo ad avere un saldo così positivo nei confronti di Alex Ferguson, e quindi mi viene molto difficile pensare a qualcosa di originale che Mourinho possa non sapere. Io credo che Mourinho, ma sono anche abbastanza convinto che l'avrà fatto, si sia andato a rivedere la partita del Milan contro il Manchester United di 2 stagioni fa, quella partita pazzesca, fu uno dei punti secondo me più alti della gestione di Ancelotti con il Milan, quando il Milan schiantò il Manchester United. Il Manchester United lo batti sul ritmo e sulla forza, l'Inter può avere entrambe le cose, soprattutto la seconda, e quindi con un Manchester United che ti può fare malissimo in contropiede devi stare molto attento, però mi sembra anche che l'Inter, dal punto di vista della lettura tattica delle partite, abbia avuto, e qui parlo a livello europeo con l'arrivo di Mourinho, un'evoluzione che non sembra dal punto di vista dei risultati, perché l'Inter non è andata benissimo nel girone di qualificazione, però ho il sospetto che dal punto di vista complessivo della preparazione e della gestione tattica l'Inter sia cresciuta, abbia ancora dei momenti di amnesia certamente, ma sia cresciuta, quindi davvero difficile. Credo che sia molto semplice dire limitare Cristiano Ronaldo, magari trovando una grande serata di Maicon e di Santon sulle corsie. Penso anche che Ferguson abbia detto a Cristiano Ronaldo di svariare molto, di non dare molti punti di riferimento, ma anche qui siamo nell'ovvio, e basterà, penso, per l'Inter far la voce grossa a centrocampo con Muntari, Cambiasso e Zanetti per avere qualche chance in più, e soprattutto di non perdere la testa, non intestardirsi in un assalto che sarebbe inutile alla difesa del Manchester United. L'Inter deve giocare davvero questa partita con molta intelligenza e sapere che la prima cosa che deve evitare è di prendere gol. Potrebbe anche non vincere, potrebbe anche fare 0-0 e non sarebbe un cattivissimo risultato. La cosa importante è che l'Inter non prenda gol. E questa mi sembra proprio l'ottica esatta di partenza. Insomma, mi veniva in mente ieri quanto fossero più sbilanciate una volta le sfide di Coppa tra partita interna e partita esterna, no? In cui si doveva capitalizzare molto se giocavi prima in casa per poi difendere. Oggi il calcio è cambiato da questo punto di vista. Totalmente, e credo anche per fortuna. Certo, c'è meno il fascino dell'assalto, soprattutto nelle gare di ritorno. Io mi ricordo molte partite, soprattutto dell'Inter con Real Madrid, nelle quali l'Inter magari faceva una grande andata, vinceva 3-1, vinceva 1-0 o 2-0 e poi andava a Madrid e si mettevano in 11 in difesa, cose che non accadono per fortuna più, e diciamo l'Inter l'anno scorso più o meno doveva fare la stessa cosa contro il Liverpool, poi non ci riuscì. diciamo che in questo momento forse le partite sono molto più aperte e a maggior ragione conta veramente di più non prendere assolutamente gol in casa, perché certo, poi diventa veramente complicato. E magari cercare di segnarlo, anzi, provare, non dico ad ogni costo, ma quasi a segnarlo fuori, che è quello esattamente che deve provare a fare la Roma sì, stasera. Alla stessa maniera, per analogia rispetto a prima, che cosa i romanisti devono sapere di fresco, di, non dico di inedito, ma di recente, di attualissimo sul conto dell'Arsenal? Guarda, l'ultima dell'Arsenal è che Diaby potrebbe giocare ed è un giocatore che è fuori già da un po', ma è un giocatore che è una sorta di metronomo del gioco e della velocità d'esecuzione dei giocatori dell'Arsenal. L'Arsenal è una squadra che assomiglia molto alla Roma, anche se è una squadra molto più orizzontale rispetto alla Roma, che va invece pesantemente in verticale. Credo che vedremo pochissima palla alta e molta palla a terra, e che da un punto di vista stilistico Arsenal-Roma sia la partita più bella, ripeto, per come le sarebbe bellissimo vedersela dall'alto, ecco, per come si muovono e per come sanno disegnare le varie traiettorie i giocatori. Stanno attenti alla Spider Cam, però, per dire l'emicrania. Con gli occhi. No, senza l'aiuto della Spider Cam, altrimenti ci si confonde un po'. Credo che la differenza la possa fare veramente Totti, perché mentre le due squadre si assomigliano per come sviluppano il gioco, l'Arsenal non ha un Totti, mentre la Roma per fortuna ce l'ha, perché Totti è quello che può davvero sparigliare tutto. L'Arsenal gioca benissimo fino agli 11 metri, ai 10 metri, e poi si perde quando sta per entrare in area piccola. È una squadra che tante volte rinuncia a tirare per andare ancora di più in verticale in area e spesso non trova i gol sporchi. La Roma secondo me può fare una grande partita già stasera. C'è l'incognita Loria, che giocherà accanto a Mexès, e la cosa curiosa di questi ottavi di finale è che ci sono almeno 4-5 partite davvero di grande che provocano un'eccitazione sana e sportiva, e però alcune squadre le devono giocare con i rincalzi, perché la Roma è in campo Loria, l'Inter probabilmente è in campo Rivas, il Manchester United è costretto a far giocare O'Shea accanto a Rio Ferdinand. Ecco, spiace un po' che ci siano tanti protagonisti davanti alla televisione. Questo è indubbiamente vero. Un paio di minuti all'intervallo per aggiornare il traffico. Più che proiettarci sulla Juventus, che potremmo fare subito dopo, anche per un fatto di attualità, visto che la Juve poi gioca domani sera, Lione-Barcellona e Atletico Madrid-Porto, potrebbe introdurre questo concetto che proprio al momento del ritorno alle coppe si è incrinata la dittatura del Barcellona in Spagna e sta risalendo forse abbastanza fortino anche Real Madrid, proprio alla vigilia del Liverpool. Ma abbastanza fortino per me è un eufemismo, perché il Real Madrid secondo me sta risalendo fortissimo e non sono sicuro che sia una risalita così sporadica. Ho la sensazione e il sospetto che quando Ramos stia facendo un grande lavoro e che probabilmente abbia trovato la maniera giusta per mettere in campo questi giocatori. Ha recuperato alcuni infortunati, ha trovato anche situazioni di calendario buone, ma in questo momento con 7 punti da recuperare sul Barcellona, avendo ancora comunque uno scontro diretto in casa, secondo me se consideriamo vivo il campionato italiano, non possiamo non considerare vivo il campionato inglese. Vero. Il campionato italiano, scusa. Detto questo, il Barcellona non è in crisi, il Barcellona ha semplicemente avuto una flessione, come è sicuramente normale che sia. Mi sembra strano l'abbia avuta psicologica in un derby che comunque a Barcellona sentono molto, però non ci dimentichiamo che il Barcellona già aveva pareggiato col Betis, già era andato con un minimo di difficoltà con lo Sporting Gijón, ed è una squadra che l'ultima partita in Liga l'aveva persa, credo a novembre, che non l'aveva vinta. Stiamo parlando di una partita del 23 novembre in casa col Getafe. L'ultima sconfitta è quella alla prima giornata contro il Numancia. Quindi è normale che prima o poi un minimo di flessione ci potesse essere. Ora aspettiamo la sfida con Real Madrid, che però sarà molto avanti, cioè sarà il 3 di maggio, e ora del 3 di maggio potrebbe anche essere calato il vantaggio del Barcellona, dipenderà molto dal cammino europeo che loro faranno. Io non ho visto una squadra in difficoltà nel Barcellona, ho visto una squadra che fisiologicamente non poteva continuare a vincere. Devo dirti invece che che il Real Madrid le ultime due partite le ha vinte 4-0 a Gion e 6-1 in casa col Betis di Siviglia. Non perde dal 13 di dicembre, quando ha perso contro il Real Madrid, e ha messo insieme anche delle vittorie interessanti, perché in questo gruppo di vittorie, che sono, se non sbaglio, 9 consecutive, ha battuto Valencia e Villarreal. Sentiva evidentemente già profumo di Liverpool. Ranieri sa tutto del Chelsea per averlo allenato, per averci vissuto per alcuni anni. Che cosa di recentissimo, di freschissimo, Fabio Tavelli, potrebbe non sapere o magari non sanno i tifosi juventini in vista di domani sera? Ma no, Ranieri sa tutto perché comunque le partite non soltanto le vede, ma gliele raccontano anche, e per persone a lui amiche, per cui certamente Ranieri sa tutto del Chelsea, come Hiddink sa moltissimo della Juventus. L'unica variazione che Hiddink ha portato dal punto di vista dei nomi è di mettere Anelka e Drogba insieme. Credo anche che la Juventus però con Chiellini e le Grottaglie sia attrezzatissima sia dal punto di vista fisico che da quello tecnico per controbattere questa, che è una forza non soltanto fisica ma anche molto tecnica. Lì Anelka, sembra che ad Anelka sia anche tornata la voglia di rimettersi un po' in discussione, non solo perché lui adesso fa tanti gol, ma perché insomma, pare che anche per Drogba possa anche sacrificarsi, possa anche girare un po' a largo per dare un po' di spazio a Drogba, e curiosamente questo fa sì che Anelka segni ancora di più, perché in realtà Drogba di gol non ne riesce a far tanti, ma Anelka invece ne fa un sacco. Detto questo, il Chelsea secondo me adesso è molto pericoloso, non ti avrei detto questo 3 settimane fa. L'arrivo di Gus Hiddink, l'entusiasmo che sembra essere tornato a Stamford Bridge mi porta a pensare che sia una partita molto più complicata di quello che onestamente, ripeto, qualche giorno fa pensavo. Anche qui la Juventus ha il problema, secondo me, di una caratura europea complessiva che ancora non è altissima, perché ci sono dei campioni del mondo e ci sono dei grandi giocatori, però a livello complessivo stiamo sempre parlando di una squadra che per 2 anni non ha fatto la Champions League, quindi ha fatto prima la Serie B e poi si è qualificata per la Champions League, e queste sono comunque stagioni nelle quali il Chelsea ha fatto qualcosa, cioè semifinale di Champions, finale di Champions persa ai rigori, e questo poi quando le partite diventano complicate e quando arriviamo magari o ai supplementari o nei momenti decisivi può avere un peso molto importante, insomma, quindi io starei molto attento, perché se voi torniamo al discorso d'origine, le 3 italiane non sono complessivamente inferiori alle 3 inglesi, ma sulla bilancia c'è un'esperienza, c'è un'abitudine, c'è una consapevolezza dell'importanza dell'avvenimento che è certamente superiore per quanto riguarda le inglesi, che non a caso negli ultimi anni hanno presidiato un po' di più la parte finale della Champions League rispetto alle italiane. Chiuderei con una breve riflessione, che è questa. Stasera si gioca Atletico Madrid-Porto e vabbè, domani sera uno degli ottavi di finale è Villarreal-Panathinaikos, con tutto rispetto. Visto che ogni tanto ritorna l'attualità, forse questo sorteggio in particolare potrebbe aver riproposto una riflessione, non dico altro, ma almeno una riflessione sul concetto di teste di serie da un certo punto in poi. Sì, è vero Gigi, ma c'è anche questo. Le teste di serie in questo caso nascono non da una designazione, ma nascono dai risultati di un girone di quattro squadre, quindi l'Inter si è presa al Manchester United per colpa sua, perché ha giocato delle partite non buone con Werder Bremen, con Panathinaikos e anche con la Nortosis, e quindi a quel punto è difficile, quando una squadra non se l'è meritato sul campo, dire va bene, tu comunque sei una testa di serie. A quel punto, se vogliamo mettere le teste di serie, e io sono d'accordo con te, dobbiamo cancellare la fase a gironi e quindi decidere le teste di serie in base ai coefficienti UEFA, io sono d'accordissimo, cancelliamo la fase a gironi, io sono ancora più d'accordo, e torniamo alla vecchia Coppa dei Campioni, così al posto di entusiasmarci a fine febbraio, cominciamo, certo, ad entusiasmarci a settembre. Certo. Questa sarebbe la soluzione di tutti i problemi. Ma essendo tal così logica e così semplice, credo che non verrà neanche. Non se ne parlerà più. Penso di no. Grazie a Fabio Tavelli. Buona giornata, grazie a voi. Chiudiamo allora questo collegamento e passiamo al primo degli ascoltatori già in linea. Francesco, dalla provincia di Pesaro e Urbino. Buongiorno. Dica. Io vorrei portare un contributo a favore degli arbitri. credo, sì, molto perseguitati dal sistema televisivo. Pertanto il doppio arbitro, il cartellino arancione, sì, va bene, però se non viene eliminate le repliche dell'immagine durante la partita, tutto questo verrà vanificato, in quanto durante la partita primi a sapere che cosa sta succedendo sono i tifosi dalle tribune tramite cellulari, sms e via dicendo. E perciò è questo che bisogna eliminare, anche perché vorrei fare riferimento anche a una partita che abbiamo visto ieri, per dare un esempio, durante la finale del torneo di Viareggio, da parte di questo regista, questa persona che decide l'immagine, che non rischia nulla, che non sappiamo neanche chi è, ha la possibilità di ripetere delle immagini, alcune sì, alcune no, e questo può condizionare tutto l'andamento del sistema arbitrale. Grazie. Francesco, io credo, penso come pensa per esempio Antonio Di Pollina, l'abbiamo sentito la scorsa settimana, il critico televisivo di Repubblica, io penso che il progresso non si possa fermare. Poi sono d'accordo con lei nel domandarmi se questo sia progresso, io anzi ho fierissimi dubbi in proposito. Certo, visto che lei è partito dal cartellino arancione, direi che non è certamente questa la priorità regolamentare del calcio di oggi, che mi pare soprattutto in Italia, ma in genere nel mondo, credo che non sia una terza via per problemi disciplinari o per eccessi di agonismo, quello che servirebbe in questo momento al calcio, se proprio ci si vuol mettere mano. Così, a quanto pare, invece, stanno decidendo. Silvia scrive, nome per nome, per Inter-Manchester non c'è partita, 2-0 per l'Inter, provate a smentirmi. Non ci provo nemmeno, Silvia, non ci provo nemmeno. Le leggo in compenso il messaggio che precede il suo. Lucio da Vigevano, mi sto sbagliando o aleggia un pericoloso ottimismo? Ecco, credo che la risposta sia firmata Lucio da Vigevano. Tocca a Maurizio, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Garanzini. Dica. Volevo parlare riguardo ai fatti che sono successi a Napoli. Secondo lei è giusto che una società sia minacciata da questi piccoli gruppi di tifosi napoletani? Io capisco le contestazioni per quello che sta mettendo in campo il giocatore. È anche vero che la società dal 2004 ad oggi non ha migliorato o acquistato delle nuove attrezzature sportive. È anche vero che la rosa dei giocatori napoletani è molto limitata e con non delle grosse qualità. Io penso soltanto, se avessimo avuto gli infortuni che ha avuto la Juve, noi saremmo andati in campo con solo i giocatori della primavera. Grazie. Beh, mi sembra che ci sia un po' tanta carne al fuoco nel suo intervento, cioè c'è un aspetto di insomma, abbastanza, c'è un aspetto tecnico finale su cui si può discutere e valutare, tenendo però sempre presenti le risorse del Napoli rispetto a quelle di altre società. C'è un aspetto etico invece, mi pareva, no? In partenza, che è quello al momento direi di maggiore attualità. Non c'è dubbio che sia, uso l'aggettivo sgradevole per stare un pochino sull'eufemismo, dover constatare per la milionesima volta che bande di ultra tengono comunque in ostaggio, grosso modo in ostaggio, o comunque si confrontano ufficialmente ad alto livello con la società, ma questo purtroppo è anche più grave, perché magari accadesse in una società soltanto, nella fattispecie il Napoli, sarebbe un male circoscritto, purtroppo così non è, e sappiamo che queste cose accadono praticamente a tutte le latitudini del nostro calcio, il profondo nord compreso. Dunque l'argentino Abel Balbo è il nuovo allenatore del Treviso, e questa è una scelta sorpresa, perché credo che Balbo non avesse mai allenato. Balbo è stato un grande attaccante, oggi ha 43 anni, ha giocato in Roma e Udinese, 199 presenze in Serie A con 109 gol e 74 in B con 33 gol, quindi uno che, beh, ve lo ricorderete immagino, era uno che alla rete avversaria dava del tu. Adesso vediamo come se la caverà come se la caverà da tecnico in una situazione oggettivamente difficile quale è quella che il Treviso sta attraversando. Una breve proiezione sulla partita di domani sera della Juventus, così giusto per completare il quadro delle tre italiane partecipanti a questa sfida. Sentiamo sulla vigilia di Chelsea-Juventus l'intervento di Buffon. Chelsea vuol dire una partita grandissima per tutti noi, vale molto, è una grossa soddisfazione, una grande sensazione rigiocare un ottavo di finale, e penso che anche il fatto che lo apprezziamo così tanto sia un indice di un'umiltà giusta, che non vuol dire sicuramente andare là e fare la parte dei comprimari. Il problema del Napoli, scrive Omar da Bologna, è aver fatto un girone d'andata migliore di ogni previsione. Sì, in parte è quello, in parte è quello. Mi ricorda, sperando che poi il finale non sia lo stesso, mi ricorda quell'anno che Cagni andò in Coppa UEFA con l'Empoli, no? E da lì cominciarono le sue disavventure. Il Napoli indubbiamente ha vissuto, giocato e vissuto un po' al di sopra delle proprie risorse durante il girone d'andata, ed è ovvio che in questi casi, in una civiltà dove poco sportiva come la nostra, questa crea aspettative, queste cose creano aspettative eccessive, e poi ovviamente si eccede per l'appunto nell'altro senso. Oggi in questa seconda parte c'è qualche modifica, qualche variazione alla scaletta tradizionale, che poi vi illustrerò meglio. Cominciamo dall'anticipo dell'appuntamento con il ripasso di storia, e quindi il Sembra Ieri di Nicola Filippone. Sembra Ieri. 24 febbraio 1993. L'Inghilterra piange per Bobby Moore. Il leggendario capitano della squadra campione del mondo nel 1966 scompare a soli 51 anni a causa di un cancro. Se ne va uno dei difensori più forti del calcio britannico, colonna del West Ham prima e del Fulham poi. Moore ha totalizzato in nazionale 108 presenze, di cui 90 da capitano. L'ultima apparizione con la maglia dei Tre Leoni risale al 14 novembre 1973, quando l'Italia si era imposta a Wembley per 1-0, grazie a una rete dell'attuale CT dell'Inghilterra, Fabio Capello. C'è in linea Alessandro, chiamato da Vicenza, buongiorno. Buongiorno Garanzini, tre cose velocissime. La prima è no al cartellino arancione, mi sembra che gli arbitri abbiano già grosse difficoltà con due, figuriamoci con tre. Bellissimo. La seconda è no, chiudiamo con moviole, movioloni e moviolisti. E la terza cosa è un in bocca al lupo agli italiani in coppa. L'ascolto per radio. Beh, c'è poco da ascoltare, direi che ha detto tutto lei. Mi aspettavo un terzo no. Così, giusto perché non c'è due senza tre. E invece è arrivato un sì, mi pare, se non altro un sì, come auspicio, insomma. Vediamo perché insomma ripeto, è giusto crederci, no? Però non è giusto illudersi, e insomma sottolineo che questa evoluzione che c'è stata dall'impossibile del 20 dicembre, grosso modo all'epoca del sorteggio, al non tanto a se può fa o weekend che sia, ma al non dico nemmeno la certezza, ma insomma ha un pizzico d'ottimismo di troppo attuale, mi sembra di aver rilevato. Antonio è in linea da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei Garancini. Senta, un'osservazione, lo sport e il calcio è spettacolo. Per chi paga le tariffe Sky e non Sky, cioè vedere una partita di calcio che ogni 30 secondi c'è un fallo, c'è una frammentazione del gioco, cioè la pubblicità, frammentazione del gioco, falli su falli, cioè dico, non è ora di inserire una regola, visto che dopo tutte le proposte presentate da altri, presentare una proposta che penalizzi la squadra che commette più falli, cioè in qualche modo, perché almeno cioè il calcio diventa, la partita diventa più fluida, e chi guarda vede un po' di più di gioco, e non sempre fallo e punizione, cioè il gioco è penalizzato. Grazie. Antonio, spesso e volentieri ricorda come il calcio sia sport di contatto, perché questo ogni tanto ce lo dimentichiamo. Quando appunto i famigerati, io li chiamo così, i moviolisti, si esibiscono in uno dei classici, no, del loro calcio farlocco, a parer mio, e dicono c'è contatto o non c'è contatto, dicono qualcosa che non è compatibile con il gioco del calcio, no? E Capello lo fa notare spesso e Collina ovviamente è d'accordo su questo punto, perché il calcio è gioco, è sport di contatto, proprio per definizione, per caratteristiche intrinseche. Poi è vero che c'è chi esagera, c'è chi il calcio lo interpreta in maniera troppo agonistica, c'è chi invece diventa difficile, cioè credo che il calcio sia nato con quelle poche regole, se, che sono 17 in totale, se ne aggiungiamo, lo snaturiamo, lo facciamo diventare come altri sport, non sto a fare i nomi ma li conoscete a memoria, che ogni 2-3 anni che cambiano questa modalità, cambiano quell'altra. Io non credo che il calcio abbia bisogno di questo. Qualcuno di voi mi ha suggerito per iscritto, attraverso mail, attraverso messaggi, mi ha suggerito un minuto di silenzio in memoria di Candido Cannavò. Io sinceramente preferisco dedicargli un pensiero e visto che stamattina il Sole 24 Ore ha pubblicato un mio ricordo di Candido Cannavò, ne prendo quello su cui poi il caporedattore ha fatto il titolo, e cioè su un gioco di parole molto semplice che si chiama epica ed etica. Epica ed etica, merce rara dati i tempi, per questo il giornalismo di Cannavò, che si fregiava di questa doppia ragione sociale, era unico nel suo genere. Poteva anche scappargli un aggettivo in più, non di troppo, colorando un commento, un'impresa, un personaggio, ma mai uno di meno quando era il momento di prendere una posizione severa, di combattere una battaglia e di denunciare un misfatto. È successo un'infinità di volte, Dio solo sa quanto certe scelte gli siano costate. Sul piano affettivo, come nel caso di Pantani, che al pari di tutti noi, prima di tutti noi, aveva adottato come campione. Sul piano editoriale, come dopo la Isel, quando la Real Casa non gradì per nulla che il titolo a 9 colonne della Gazzetta strillasse, anzi tuonasse, Juve nascondi quella coppa. Ma lo scontro non era previsto per nessuno, non faceva parte prima ancora che della sua strategia editoriale, del suo DNA. Ombre vertical, Cannavolo è stato a pieno titolo anche in queste ultime stagioni in cui la schiena si era incurvata sotto il peso delle stagioni, ma non certo delle pressioni. Addio Candido, averti voluto bene significa provare a tramandare la tua lezione. Mancano poco più di 20 minuti alle 3, credo mi perdonerete se scappo, letteralmente scappo, per raggiungere la Basilica di Sant'Ambrogio, lasciandovi all'ascolto di un'intervista a Massimo Giacomini, presidente del settore giovanile scolastico della FIGC, che ho registrato giusto un'ora fa. È una nuova e molto interessante, a parer mio, iniziativa, di cui parleremo poi ancora, del settore giovanile scolastico in collaborazione col Ministero della Pubblica Istruzione. Riguarda i giovani, i ragazzi, il loro avvicinamento allo sport, al calcio in particolare, ma miscelato con lo studio. Un progetto interdisciplinare che adesso ascolterete e che mi pare davvero di particolare interesse. Credo che a Candido sarebbe piaciuto. Giacomini, buongiorno Massimo. Buongiorno Gigi. L'idea è nata così nella nostra ricerca di fare delle manifestazioni assieme alla scuola, assieme al Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca. Sì. E quindi abbiamo pensato sulla linea e sull'indirizzo che il settore giovanile ha da parecchio tempo, vale a dire un indirizzo pedagogico, educativo e culturale. E noi tendiamo ovviamente a formare i bambini, i giovani al gioco del calcio, ma educandoli attraverso il gioco stesso. Allora è nata questa manifestazione, I valori scendono in campo, che comprende i bambini della terza, quarta e quinta elementare, sì, di 57 città e quindi di 57 province, circa parteciperanno 620.000 bambini, certo. Questo progetto si svilupperà in 3 anni, quest'anno è rivolto ai bambini della seconda parte delle scuole primarie, vale a dire, come dicevo, terza, quarta e quinta. Il prossimo anno saranno compresi anche i primi 2 anni, prima e seconda, terza, quarta e quinta, e l'ultimo anno della scuola d'infanzia. E il terzo anno verranno compresi quindi tutti questi, e in più la prima, la seconda e la terza media, vale a dire la prima fase delle scuole secondarie. Quindi aumenterà notevolmente di numero nell'arco degli anni. Nell'arco degli anni, anche se già questi numeri, perché 57 province, 10 regioni ho letto. No, sì, 10 regioni, che virtualmente è un progetto ovviamente che noi stiamo valutando come svilupparlo. È evidente che questa è la prima volta e quindi abbiamo implicato soltanto 10 regioni, mentre appunto dal prossimo anno ci saranno, certo, tutte le regioni, e poi l'aumento anche delle classi, come ho già detto, certo, e il terzo, certo, anno anche le tre medie. Ma un punto di partenza già molto vasto. Leggevo anche di questi comitati organizzatori locali, no? Di questi COL, che dovranno un po', non so come dire, coordinare probabilmente, no? Organizzare materialmente questa attività. Sì, noi ovviamente abbiamo l'organizzazione, innanzitutto abbiamo avuto l'appoggio pieno del Ministero della Pubblica Istruzione e Università e Ricerca, che ringraziamo. Noi logicamente riteniamo che la scuola è un partner assolutamente indispensabile, perché è l'agenzia educativa più importante, certo, e quindi noi vorremmo affiancarla e vorremmo essere dei partner privilegiati per la scuola, e penso che lo meritiamo visto quello che abbiamo fatto già negli anni precedenti con altre manifestazioni. Ora localmente ci sarà un comitato organizzatore locale, un COL, che sarà presieduto dal nostro coordinatore federale regionale, più ci farà parte il coordinatore ovviamente regionale della scuola e l'assessore allo sport della città. E questi ovviamente organizzeranno, perché ci sarà la partecipazione di alcune scuole, poi verrà fatto logicamente un lavoro culturale ed educativo molto bello e molto interessante, ed è un progetto interdisciplinare che attraverso il gioco del calcio e logicamente tutte le sue sfaccettature vuole istruire i ragazzi nella storia, nella geografia, nella geometria, nel comportamenti ovviamente, e anche i comportamenti rispetto a quello che è l'igiene e l'alimentazione. Per cui è un discorso interdisciplinare molto interessante, e noi ringraziamo gli insegnanti, maestri e maestre, che hanno aderito con grande slancio, e i quali saranno aiutati da persone competenti, alle quali noi abbiamo già fatto un corso all'acqua acetosa, in maniera che siano venuti a perfetta conoscenza del progetto e possano quindi, qualora ce ne fosse bisogno, ce ne sarà sicuramente, aiutare i vari insegnanti a sviluppare questo progetto che, ripeto, è un progetto interdisciplinare che parte dalla storia del calcio e dall'antichità e arriva fino alla storia del calcio moderno, implicando ovviamente la geografia, perché se noi presentiamo ad esempio la figura di Pelé, giocatore brasiliano, poi intorno alla figura di Pelé si innesta il fatto di dove sta il Brasile. Certo, ma io ti devo solo interrompere un istante per ragioni di servizio, ma davvero leggendo questo progetto, il dettaglio di questo progetto, non c'è dubbio che sia ambizioso e che sia davvero di spessore. Torniamo in compagnia di Massimo Giacomini, presidente, vi ricordo, del settore giovanile e scolastico, ma prima ancora direi, a prescindere, grande appassionato di calcio giovanile e di calcio educativo. E eravamo arrivati a Pelé, Massimo, e a questi ragazzi che scopriranno il nome di Pelé e da lì ricaveranno tutta una serie di informazioni interdisciplinari. Informazioni storiche e geografiche, ad esempio, sul Brasile. Ad esempio, attraverso i nostri miti, attraverso Gigi Riva, scopriranno che è nato sul Lago Maggiore, poi invece ha scelto di vivere in Sardegna. Ma la Sardegna dov'è? Qual è l'attività economica più rilevante? Cioè, c'è tutto un discorso che portiamo dietro. Un filo di Arianna, un filo di Arianna che guiderà questi bambini. Come abbiamo detto, da Omero a Pistorius, insomma. Bello, da Omero a Pistorius. Passando attraverso tutte le fasi dei giochi nei vari secoli, e ovviamente puntando sulla storia anche moderna del gioco del calcio, 1848 a Cambridge nasce il calcio moderno, 1857 il primo club a Sheffield, e si va avanti. Nel 1910 la prima partita della nazionale italiana viene effettuata contro chi? Contro la Francia. Alla Francia dove sta? E come è andato il risultato? 6-2 per l'Italia. Certo. Insomma, e si va avanti così. Perché la maglia della nazionale è azzurra? E così ci sono tutti questi riferimenti. E poi capisci, si può fare della geografia con le misure del campo. Per favore, mi sai trovare l'area del rettangolo di gioco, il perimetro, quanto è grande un'area la circonferenza del cerchio centrocampo. Insomma, quindi ci sono moltissimi spunti sotto questo aspetto, ma soprattutto io ritengo che noi puntiamo alla fine come risultato eccellente che i ragazzi scrivano quali sono i diritti e i doveri del tifoso. Oh, e qui questa questo mi sembra un punto d'arrivo, un punto di partenza, esatto. Che però insieme è un punto d'arrivo. Esatto, cioè ci saranno logicamente nei kit che diamo, che ci sono questi manifesti, c'è scritto tutto quello che si svolgerà, ci sono dei gadget ovviamente, ci sono degli album dove i ragazzi scriveranno le loro impressioni e che cosa pensano sul tifo, come va fatto, quali sono i diritti che deve avere chi va a vedere una partita di calcio, ma quali sono soprattutto. I suoi doveri, perché noi pensiamo che sia il diritto dei bambini che qualcuno gli spieghi quali sono i loro doveri, è un diritto che hanno loro. È vero. E gli adulti molte volte si dimenticano di spiegare loro quali sono i doveri, e quindi noi vogliamo che i ragazzi di loro pugno ci scrivano queste cose che riteniamo saranno sicuramente estremamente interessanti. Non c'è dubbio, quindi una componente educativa ed etica ben precisa. Ne ho lette altre che tu stesso hai ricordato all'inizio, per esempio alimentazione e salute, mangia bene e vivi meglio, anche questo è un modo di provare a responsabilizzare questi piccoli. Assolutamente, spiegando delle cose molto semplici e che sono molto evidenti per tutti, e dal fatto di un'alimentazione corretta e da un'igiene del corpo, anche poi i ragazzini in questo caso sono abbastanza giovani, ma in quelli un po' più grandini il discorso anche dell'attenzione a certe situazioni di integratori, insegnare ai bambini che quando hai sete e hai sudato ti vai a bere un po' d'acqua sotto la fontanella e non prendi un integratore. Certo. Ecco, per dire, io non ho niente con nessuno, ma mi sembra che l'acqua abbia tutte sempre le qualità, certo. Le qualità per reintegrare il sudore che il bambino ha perso giocando. Ecco, Come no? Questo come indicazione, è un discorso semplice, ma come indicazione di che cosa noi vogliamo fare, e sicuramente riusciamo a farla perché abbiamo logicamente dei grandi collaboratori che sottolineiamo sono volontari e sul territorio che siamo certi, dal momento che seguiamo passo passo il cammino di questo progetto avrà un grande successo. Io non ho dubbi, e ti dico perché con un brevissimo inciso, perché i bambini oggi sono davvero, credo, più sensibili di noi adulti su certe problematiche. Ho visto per esempio come hanno reagito mi illumino di meno che questa grande iniziativa di Caterpillar e di Radio 2 a proposito di risparmio energetico, l'ho misurato in una piccola realtà locale personalmente, ma lo so dagli amici, da Ciri, da Solibello, sono i bambini sempre più sensibili su queste problematiche. E quindi ne cito un'altra che leggo che leggo adesso dal vostro programma: tra gli obiettivi c'è quello di insegnare ai bambini a contare le pulsazioni del cuore, a gestire la respirazione in funzione dell'attività motoria, a illustrare una corretta alimentazione, e ci riagganciamo prima di un'attività sportiva. Io sono certo che investirli di questi incarichi, responsabilizzarli in questa ottica è un'eccellente idea proprio. Senz'altro, noi abbiamo dei partner importanti, il CONI, il Comitato Paralimpico Italiano, abbiamo l'Associazione Italiana Calciatori, l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, ho detto l'Associazione Italiana Calciatori, l'Associazione Italiana Arbitri, poi abbiamo la Panini e il nostro partner, diciamo, tecnico è la Puma. E per cui siamo accompagnati, ritengo, molto bene e siamo contenti di avere questi partner che possiamo dire sono tutti partner etici, ecco questo. Questo è un altro fattore importante. Le tappe del progetto, io visto che ci avviamo alla conclusione, le tappe di questo cammino e poi la sua conclusione, perlomeno per questa prima stagione. Se cioè vengono fatte ovviamente delle selezioni e vengono giudicate il materiale che viene prodotto dalle varie scuole, quindi si fa questa selezione in maniera di arrivare a coloro che arrivano primi in questo progetto. Ci sarà poi una festa il 23-24 di maggio assieme a una manifestazione tradizionale del settore giovanile scolastico, il Fan Football. Assieme a questa manifestazione ci sarà appunto la manifestazione finale nelle varie città del progetto I Valori Scendono in Campo, dove ovviamente oltre al fatto che parteciperanno i ragazzi delle scuole sono state premiate, questi ragazzi anche in quel frangente parteciperanno ovviamente ai vari giochi che questa manifestazione del fan football prevede sul campo, perché il progetto prevede più che altro un aspetto didattico e culturale rispetto a un aspetto di partecipazione, diciamo, fisica sui campi o sulle palestre, mentre nella festa finale avviene un fatto che viene nel quale vengono coinvolti fisicamente i ragazzini e le ragazzine e in più ovviamente l'aspetto pedagogico, didattico, educativo, che è la linea conduttrice di tutto il progetto. Torneremo a parlarne e seguiremo, non dico passo per passo, ma certamente con una cadenza ragionevole questa iniziativa. I Valori Scendono in Campo, vi ricordo, Federazione Italiana Gioco Calcio Settore Giovanile Scolastico, in collaborazione col Ministero della Pubblica Istruzione. Grazie a Massimo Giacomini. Grazie a te, Gigi. Ciao. Grazie a Massimo Giacomini, basta sentirlo parlare, sembra più che mai sincronizzato, mi pare, no? Con lo slogan della nostra radio, perché con Massimo davvero la passione si sente. Siamo arrivati anche per oggi alla fine di questo appuntamento, grazie allora a Fabio Cantadori in regia, a Laura Vanossi in redazione. Appuntamento a domani, vi lascio al giornale radio.